stammi nervosi, mi hai fatto spaventare. Capito a me, bello bene. E bello, il picchiava. Bubù. Catta. Arratti, va via, di là. Ma ve la vai come succa? Ah? Ce la fai a svegliarmi? Perché dormito ieri? No. Aspetta, e addormi poco, a questo. E basta notte, addormi. E allora, fatta dormire. Bubù. Dato te che dormi così tanto, ragazzi. Questa volta ne approfitti, E non approfittare tanto, Sì, piano piano, Gio Marì. Comunque, ciao, buonasera. Non so con chi stai parlando perché sento solo a te. No, io... sento solo a te, sento, fra. Comunque, buonasera, ben sentito. C'era, mi sembra che c'era coso, Luca, ma quello parla a tratti, parla, a rati anzi, tu a tratti, a rate, vero Luca, lo da gala no, a quale soldo va fra? Questo come ti ho detto parla da a rati, è abituato a fermare i cambiali. E allora fra, come va quella zona? Come va? Bene? Benissimo, Gio Marì, va bene. Zona tranquilla e serena. Allora siamo a posto fra. Meglio così, e la vita continua. Bisogna andare sempre avanti, quando è così. Speriamo. Speriamo che ti bene, che vada bene. Va bene così, se continua così già va bene, non è un problema. Ogni tanto ci sbagliamo, poi quando abbiamo tempo libero ci riposiamo. Lo credo bene, già abbiamo faticato troppo, sicché a noi adesso ci tocca a riposarsi e basta. Ogni tanto un bel giretto e tirando avanti, cos'è? E così via, fra. Allora, perché ce la faccio bisogna girare il più possibile. Poi quando non ce la farò, pazienza. Faccio come fanno tutti. Perché c'è vita, c'è sempre speranza di zia Guido, fra. Così che noi pensiamo ad andare sempre avanti, finché la barca va. E adesso non la puoi fare niente, no. Così che lasciamo andare come viene. Già è vero. E cosa ci vuoi fare? Va bene così. Stavo dicendo. Ma c'è nessuno in queste frequenze. Capita, io va bene, non ci sono tutti i giorni. Che sono più fuori che qua, a casa. Ma quando accendo non c'è mai nessuno, sempre vuoto. La sera più tardi magari, certe volte qualcuno entra prima delle 6, ma se no dopo le 6 qualcuno la si appresenta. C'è sempre Tore, c'è sempre Marchisio, c'è Graziano, ogni tanto Luca e così via, come io l'accendo. Però ripeto, certe volte sto anche ore e ore acceso, non c'è mai nessuno, e ascolto, mi piace ascoltare, mi sto guardando, la televisione c'ho gli apparecchi accesi, uno e l'altro. Se abbaiano già li sento. Cappa, sì. No, anche io ho le radio, ho tre frequenze diverse da una radio all'altra, con tre antenne e già sento tutti, sia in una frequenza sia in l'altra, già se entra qualcuno già li sento, però tutto muto. Ieri io non c'ero, ieri non c'ero per niente, l'altro ieri idem. È un periodo che sto girando là. No, ieri c'ero anch'io ieri. C'era Tore, c'era Marchisio, c'era Luca, che altro c'era dopo? Graziano, magari secondo le ore, capito? Ancora magari presto, però dopo magari qualcuno si farà sentire senz'altro, vai. Certo che alle 8 dopo prima delle 8 chiudono tutti, come anch'io faccio così, però prima delle 8 già ci sono, vai. E qualche sera capita che non c'è anche nessuno e purtroppo non è come prima, no, fra. Le cose stanno cambiando di giorno in giorno, per cui io certe sere non entro, magari ascolto, però non entro. Mi guardo magari la TV, oppure c'è gente, però l'apparecchio è sempre acceso, è sempre acceso. Anche la mattina, se sono a casa, li accendo tutte e due e non c'è nessuno. Ah, prima della una spengo tutto e tiro a campare. Poi la sera l'accendo alle 4 in poi se sono a casa. È così. Guardo la TV, però l'apparecchio si è pazienza, si entrano, si chiacchiano, se ho pazienza. Non mi piglio nessun coso. Non ne ho impegni, capito? Per cui mi sta bene così e basta. Magari prima mi trattenevo di più e da un'altra cosa, adesso non ne ho più voglia, cosa vuoi fare? Non ce n'è più voglia a chiacchierare molte volte, entro magari saluto e dopo sparisco, capito? Perché mi sa, chissà perché. Vabbè Giovanni, c'è anche l'età, c'è anche l'età che è ovvio che adesso comincia a stancarti, quelle così. Non è per dire come, vabbè, io in confronto a te sono giovane ancora, non sono abbastanza molto avanzato, ho solo 64 anni, non c'ho la tua età, diciamo che è diverso, magari a me ancora viene voglia di uscire, di andare, fare, vedere e via, come... perché se non li fai adesso non li fai più, poi arrivi a una certa età non lo puoi fare più, perché magari come hai detto tu ti stanchi di più e tutto quanto, è l'età quella, purtroppo oggi vuoi fare, però l'importante è esserci. Ma è così, ecco, magari è una certa età ormai, no, non te ne viene voglia, magari piace anche ascoltare, vabbè, che non sempre, non è come prima, chiaro che anche l'età influisce molto anche su questo, capito, perché non ce n'è più voglia, non mi viene più voglia, mi stacco subito, magari entro 10 minuti un po', ripeto, e sparisco subito, è tutta un'altra cosa, come anni fa magari ore e ore gatte attaccate, non mi stancavo, invece adesso due frasi e mi stacco, e vabbè, purtroppo è così, e come sono io ce ne sono anche parecchie, non ne hanno più voglia, chi per una cosa, chi per l'altra, per cui c'è un assentismo quasi totale, quasi totale. E la radio non è più come prima, ecco, ormai ci sono altre cose molto più importanti, per cui no, io ripeto, ce li ho davanti, li accendo, se ce ne ascolto, ci chiacchiero, se non ho voglia ascolto e basta, fra, e purtroppo così riprende. Ehi capo, guarda, io ho fatto adesso dalla 22 sino al 2 ero fuori, ero a Torino, mi ho fatto Natale, Capodanno, su mi ho fatto, e lì dove abitavo, dove ero io, vicino a dove abitavo io, c'era questo signore che ci aveva, non era radioamatore, era un CB, però ci aveva di tutto e di più, ci aveva questo qua, e antenne anche sul tetto ci aveva, e anche una direttiva dei 40 metri ci aveva, dice che la usava solo in ascolto quella, e guarda, e ho visto che anche là i CB sono scarsi, sono rari come qua, c'è qualcuno e basta, non è tanta gente, anche i radioamatori hanno diminuito, perché lì ce ne parlano molto molto in digitale, parlano i radioamatori, non si sentono più lì sull'HF e cose così, E infatti gli ho detto non cambia niente dalla Sardegna, gli ho detto. Anche in Sardegna siamo messi così, siamo. I cibi sono pochi, poi massimo che mudano un'ora e mezza e poi basta, di pomeriggio. Avanti a te. Ma infatti è vero, anche i radioattori hanno diviso anche loro, infatti, perché molti adesso trasmettono in digitale o col computer, varie, capito? E qua, ci sono ogni tanto, però sono tutti quasi in digitale, capito? E non senti più, però ogni tanto qualcuno si affaccia anche sulla 27 e ce ne sono due o tre che ogni tanto si affacciano quando ti sentono e un pochettino salutano e ti raccampano e purtroppo ogni cosa viene passa, capito? Noi adesso non c'è più nessuno, tu lo accendi, già c'è qualcuno, ma sono in pochi, capito? Perché sono tutti in digitale la maggior parte, allora qua non senti più niente, capito? Infatti è così proprio, e modulano nello stesso canale, modulano però in digitale, e noi non li sentiamo, noi sentiamo qualche ti e basta, sentiamo, però non li sentiamo noi. In effetti adesso con quell'applicazione che ha messo la Midland, se tu vai sulla Italia 14, lì sono tutti radioamatori, se vedi che tu dici qualcosa di sbagliato lì e là, loro ti correggono, allora si presentano, ti dicono guarda che non me lo puoi dire che questo non è così, non è là, quella radio non può fare quello, perché io sono, ti dicono io sono un radioamatore, tanti anni lo posso sapere queste cose qua, infatti ci sono, tutti quelli che ho sentito sono tutti radioamatori lì, tutti. È così, sì, è al solito. Magari no, cosa vuoi fare? Molti li ascoltano, a me non ripetono, non ascoltare, nemmeno qua, no. Sono da già 4 anni che non li accendo nemmeno, ecco. Non li accendo nemmeno perché non mi va, cosa mi dica? Piace rimanere qua in 27 e basta, mentre prima giravo e li sentivo, adesso invece lo giro, non mi piace nemmeno ascoltarli, eccolo, e ripeto, forse l'età, capito, per cui mi sono staccato, per cui non ho più voglia, ecco. Adesso magari con te ci sono troppo, perché mi sacco subito. Se lo chiudo io sempre, capito? No, da quando ci sono 5 minuti io mi stanco. È sempre per il fatto dell'età che non ho più voglia, ecco, tutto lì. Capo Giovanni, in effetti è così. Io quella, la radio, il 680 ce l'ho sempre acceso, perché lo accendo, e anche se io non sono qua, a volte lo accendo, anche se esco, lo accendo, lo lascio acceso tanto per scaldare, per non rovinarsi, finché non riesco a venderlo, poi me lo tolgo dai piedi e mi tengo qualche baracchino e basta, perché è un peccato che si rovini così quella radio lì, è un peccato, meglio che ce l'abbia uno che lo usi, ma che averlo io, e rovinarsi, dai. Adesso poi l'unica cosa che mi tengo sono queste qua, radio piccoline, baracchini, e questa che sto modulando adesso, è un veicolare, però se si rovina non me ne frega niente, non è che sono tanti i soldi di quello, però non sono né tanti né pochi, gli costa lo stesso, perché è una radiolina da 200 euro, non è da poco, anche se il valore a noi CB gli danno il degrado, dai, quando compriamo noi, anche usati, ci fanno pagare una cifra, poi andiamo a venderli noi e vogliono una miseria, però per certe miserie meglio me li tengo. Io ne ho fatto un paio, ne ho dato un paio, se me ne sono rimasti parecchi ancora, mi gliel'ho speso soldi io, frate, Luca già lo sa, li ho speso un bel, e un bel che li ho tutti accatastati, e chi li tocca più, non li tocca, ma mi tengo questo qua, e la 27, se riesco a dare io, mi dà su paio e basta. Io non pazienza, tanto pagati sono pagati, pare non me ne chiedono. E riesco a darli io, se no da sono bene come dove sono. Non mi interessa più tanto, capito? Perché non ho, ormai è passata quella voglia e per cui ogni tanto Guigi mi faccia anch'io, non è, è chiacchiero, però ripeto, non è più come prima, ecco. Sì, speriamo che mi duri ancora, anche poco, però che mi duri, se no le accattasso tutti e non se ne parla più. Capito me? Però una volta che ce l'hai, qualcuno lo accendi, no? Certo me lo accendi, capita. E ci ascolti anche, perché ci sono le frequenze che si possono ascoltare e andare. Ci sono, ogni tanto già si affacciano anche in 40 metri, in 80 metri, in 20 metri, già ogni tanto qualcuno si affaccia, a volte c'è qualcuno che non si capisce come parla, però quando ti stacca prende e cambia canale. Bah, e ogni tanto già, ripeto, io quando sono a casa li accendo, se non sono in da fare altre cose, gli apparecchi li accendo, capito? Uno e l'altro, è questo qua. Ma che se non c'è nessuno, rimane acceso. Dopo, prima dell'una, glielo spengo. E dopo le quattro li accendo, tutti e due stesso, fino alle otto. E le orari mie sono quelle lì, per cui se ci sono qualche volta entro, ma molte volte adesso parecchie volte, e li sento parlare, però non entro, mi chiamano, magari non rispondo perché non ho voglia, capito? Però sto ascoltando, ecco, tutto lì fra. Anda bene, anda bene. Oh Giulia. Però dopo non si è più sentito, come mai? C'era ogni sera, vabbè, se non è in quell'altra frequenza. Che Pomponio? Sì. Non l'ho sentito, sono già parecchi giorni che non lo sento. E ogni tanto anche lui si assenta, non so perché. Magari quando nemmeno ci pensi, entra e si farà che creatino. Mi sembra che l'ho sentito la settimana scorsa, una sera. Però stavo ascoltando, poi sono entrato, l'ho salutato e sono rimasto in quel rix. Ma parecchio ce ne sono assentati, Magari qualcuno ogni tanto si affaccia. Poi risulto la sera, c'è Coso, Graziano, c'è Tore, c'è Bacchisio, c'è Luca del Monte. C'è un altro nuovo, un altro giovane, Vittorio, si chiama Vittorio, che è tra Graziano e in quella zona là. E basta, non sento altro nessuno, solo quelli sente la sera. Anzi, strano che ancora non si è fatto sentire nessuno. Vuol dire che non ne hanno voglia di modulare. Antonello lo ascoltavo sempre nell'altra frequenza, nel CH 14, poi non si è più sentito. Ofra, li ho messi da una parte, non li ho accesi più quella roba, no. Vabbè, no, sono questi due, sono la 27 e questo qua. Sono le, come si chiama, il 7009. E questo qua, ma gli altri tutto, li ho buttati fuori da mezzo, mi salvano dai irvi, e così che li ho ritirati tu dentro le scatole, Cosa vuoi fare? Già bastano per queste chiacchierate così 5 minuti, basta questi due anche troppo, capito? Però là non li ho accesi più, nulla, magari intanto li butto fuori, li faccio scaldare, però non ci parlo, ecco, non mi va. Capa, no, ma io ti stavo dicendo che Antonello lo sentivo nel CH là, nel 14, però nell'applicazione della Midland, capito? Nel telefonino. Ho capito. Vedi, anche quello non mi va. Boh, è meglio qua, fra, è meglio qua, io preferisco qua, ma al telefonino. Sì, me lo voleva installare Luca, ma non mi piace. Dai, abbassi un po' il telefono, voi immaginate un po' che si goggi, fra. Non è per me, dai, bisogna che dirlo e basta, no. Non ne ho voluto, me lo volevo installare. Però no, non mi va, sì che è meglio che sia così. Cosa vuoi fare? Te l'ho detto, sono stanco ormai, capito? Capo, vabbè. Va benissimo. Niente, devo dire. Ok, dai, frati, sentiamo, dai. Io ormai qui mi sto guardando un film della TV e per cui ne approfitto, dai. Già, ti sentiamo, fra, dai, stammi bene, ma faccio il piacere di averlo sentito. Saluto di famiglia e può darsi anche più tardi, dai, può darsi pure più tardi che entri. Ok, ci sentiamo, fra. Cappa, ciao, Gio Maria. Tutto ricambiato al 100, dai, salutoni, ci sentiamo. Al limite se poi entrate da qualche parte, se sono ancora qua sopra, entro. Ci sentiamo, ciao, buon proseguo. Ok, ciao. Che stai facendo? Arriva il sole. Che stai facendo? Arriva il sole, gufo. Ehi, sto facendo l'aria al sonno. Ehi, qua non c'è acqua, date acqua, ce n'è. No, ma tu ci avrai il serbatoio. No, infatti, adesso che finisco l'aria zotta con l'autoclave, se ne è andata verso le 5 e mezzo. E la fine, torna domani alle 5. Alle 5 domani mattina, mi sembra. Cazzo, ma l'hanno avvisato almeno, buh. Anche tu. Io l'ho letto sul telefonino, su internet. Tutto usato, pure in periferia. Questo è un casino, bubu, per carità, va. Adesso è un casino. Vabbè, ce l'abbiamo a pezzi, cosa vuoi dire? Infatti, ce l'abbiamo a pezzi, la bui, insomma. Non so se la fa la vita, cosa fa? Va? Vabbè, dai, che finisco qua. Via, ciao, Vittu. Ciao. E tondo. Quanti sei là su, sottendo? Ciao Bacchi, Ciao Luca, buonasera anche a Vittorio. Ma Luca, visto mai? E non te l'ha accennato, perché ieri non c'eri. Ah sì, non sono entrato in Bari, L'ho aperto ma anomalia non ne ha, cioè non vedo roba bruciata. Comunque l'audio si sente, basso basso ma si sente. Basso basso si sente, è quello il difetto. Bisogna vedere qual è quello bruciato, e lì ce ne sono tantissimi. Allora bisogna lo faccio vedere al Vittorio. Oh, cavolo, hai preso. Al Vittorio tu, Vittorio l'altro. Hai capito lui? Cosa, Vittorio, cosa ha detto? No, ha girito a macchina, si avvicinano un po' poco perché non si sente bene quello che sta dicendo. Ah, ma chi cos'è che ha detto, Vittorio? Vittorio Giove, diciamo così, l'avviatore, quello che fa radio, TV. Beh? Lo porto a lui allora per vedere un po', mi faccio dire cos'è che deve cambiare. Allora lui vedi un po'. Io ripeto, ce l'ho saldatore, quei componenti lì li cambio, capito? Me lo permette il saldatore, attenzione, se no mica lo posso fare. Va bene, mi sono anche mi è arrivata anche l'aria, aspirata stagna d'aria. Beh, la saldare poi magari lo fai tu, io mi faccia dire in quale punto è il difetto. Ma se te l'ho fatto lo fa lui direttamente, cioè già attrezzato penso, ha voglia. Capo, non lo so, non metto lingua. Vabbè, magari adesso, vabbè, la mia 25 è andata all'ospedale, perché, vabbè, non sto qua a dire che per che cosa, comunque, non è per lei, vabbè, e sono a piedi adesso. Magari ci vediamo, domani sera, non so, questa la do. Ci vediamo un po', Luca, se hai altri problemi da risolvere, risolvi quei problemi, quelli della radio può aspettare. Non c'è problema, dai, già è qua, l'ho messa qua in camera, in cameretta. Provate ad accenderla, accende, poi si sente basso basso. Mia, dai. Benissimo, ci sentiamo allora, dai. Passo 20 con Rix, stavo sistemando qualcosa qua. E poi rientro. Avanti, Vittorio, con la buonasera ancora, con Rix per mia, vai. Mi sa che Vittorio ti è farato. La bocca a bocca, Graziano. Grazie. Un po' dentro, aspetta. Dillo che ti faccio la respirazione a bocca a bocca a Vittorio. Sì, era Vittoria. Vittorio, no Vittoria. Ma decidetevi, o Vittoria o Vittorio. Ma mi senti, Vittorio? Sì che ti sento, Giovanni. L'ha devato la voto quando della molletta. Auro, buonasera. Lui che mi mandi queste cose su Messenger, ma queste schifette, ma dove le trovi? Sì, mi manda grazie a queste schifette a me. Ho detto, ti hai fatto la foto quando della molletta. Eia. Ciao, conosci una di Andrea. Ma chi, zio Molletta? No, quello è veramente un pazzo, sto sclerato. A me lo fai conosci. Forse lo conosco prima di te, cosa vedi? Lo vedo ogni giorno alla grare, ogni mattina, perché va a zappare. Lo conosco da una vita veramente, guarda, è un piccolo piccolo. Fuori di Gabusi. Vabbè, è in gamba però Andrea, dai. Poi sono in gamba. Vabbè, zio Mari, allora. Oh, tanto non risolgo il gatto. Il braccio, io posso vedere più il braccio dritto, gatto. per fargli la lunga a buca. Vabbè. Io c'ho ancora un po' di... cioè, tosse, oddio, a colpi, ma non dà fastidio, là. Però è strana questa cosa, non può passare. Entra subito a passare, chi senta? Per carità. Grazie, là. Grazie a voi, se fai di rubiti, curu, ragazzolo. Addirittura. Certo. Ma come... ci arrepiamo allora. No, che ne stavo ritirando la macchinetta. Dell'ossigeno, ma dell'aerosol. È vero. E allora, per la me, a me stava come ti bombo. Dopo che mi ha fatto la carica. Come vai, stai facendo l'aerosol? A tosse c'hai. Domani. Va di tosse, influenza, arrumatia, un pacco di fazzolettini di chi si dà 30 a un altro va di un altro, chi cappa nell'online, boh! Cambiamo l'online, cosa vuol dire? Grosso, mi, grosso, è tutto un ruggio a furia di... Me ne fa la barriera, ma un rubinetto che sgocciola, tic, tic! Tu hai detto l'online? Ma tu l'avevo fatto ridappi, sono andato da Paoletta, l'ha detto, mi la bocca, ti l'ho tirato di culo una volta. È vero. E allora, che se non ti contagio, mi vabbè. Io la parte mia ce l'ho fatta, anzi, è pure un truppo. Ma ti vedo ti colore il viso, oh, prendi tutti i giudizi, finalmente la chieda abbassata. Mettene Gio Maria, in cui ti dici dammi, bubu. E beh, Gio Maria, prese le ali anguille oggi. Oh, le ho preso. C'è la roba che non mi piaceva, capito? E cosa ho preso? Non mi si chiama. La triglia ho preso da Cafu, ogni adriglia non ti dico niente. Certo, mi ne uscite 7, 8, 8, ma con ognuna una bella a 14 euro, con ognuna che l'ho fatta a mese lì, certo, ma come la che cosa di mangiare? C'è io nel possetto, va giù buru, lo zarretta che ne avevo pigliato un bel, due chiedi fa, e allora l'ho messo nel possetto. Tutto quello era troppo a lasciarlo fuori, se no si guazzava. Uno di drilli, gli avviraggia, solo che io non ne mangio, triglia. Ma troppa ipina, me lo zarretto si frisso. E zarretto era minuto, no? Non l'ha giubilato malissimo, era troppo piccolo, non l'ha giubilato. Se... No, poi siamo andati a Carrefour, da lì. Lì avevo bilato, dunque, la drilla, cosa, le corse, e poi saltavo bilato. Là si vede che si fa l'insalata, ma si fa l'insalata che non mi lamento come ti si chiamano. Buongiorno, ho fatto l'insalata. No, oggi ho fatto pasta e fagioli e patate, buona rita, e solo le impanate e friggiti, impanate con la farina e fritte, buoni. E tu Luca, cosa hai mangiato oggi? Io ho mangiato pasta con i carciofi, ho mangiato un po' di patate al forno, c'erano anche le rolate, poi di quello ne ho mangiato, e la frutta, due aranci e una banana. Buono, anzi mi devo preparare le polpette del riso, perché ieri ho fatto un po' di risotto, mi è rimasto, adesso faccio le polpette del riso, fino a domani non si. Febbre. Sono tocca buttarlo dopo. Adesso stanotte dopo mi ceno una rolatina e un po' di patata al forno e frutta C'ho anche fame. Ehi, le roulettine con le piccole di pollo, quelle sono buone mie, a puzza di garota, sella, rubone, tagliato a dadini, bonareddu, vero Giommari? Allora qui, questo è tutto buono, questo è buonissimo. Ehi, ehi, Ettore, non si è sentito oggi, Ettore senza motore. Cos'è? Ettore, ci ha trovato pure a Rosi, ci siamo riuscito io. Siamo usciti, abbiamo trovato a Rosi a cosa? A Europi. Già me l'ha detto, ma io non vedo, non mi ha trovato a pizzicare l'influenza, non saranno. Mi fa arrivare tutta la bistorra, infatti, devo essere la casa che sono vicino, mi ha fulminato. Oppure quando sono uscito dalla doccia, ma sono andato vicino alla stufa quando ne sono uscito, ma ha crepato. Allora tu prima di entrare in doccia ti devi mettere la supposta, no? L'hai fatta, ti ha fulminato, visto, quello Giomari. Guarda che io in bagno prima di entrare mi metto lo scaldino, anche se c'è caldo, io ricaldo di più il bagno. Poi abbasso la porta, poi di un quarto d'ora controllo ed è un porro. Vabbè, comunque, per sicurezza tanto ti devi mettere la supposta, capito? Ma quella grossa però, non quella fine. Quella fine non fa niente. Ah, chissà fini fini, fate di Grigura, Graziano. Voi sei il Lino. Senti, con tutti questi retroscopi, già non credo. Ma come in abisso. E va. State bene, buon proseguimento, ci sentiamo domani, vai. Sto chiudendo. Mi sono rimasti tre trighe e me la immaginava con l'insalata e me ne mangio a faccia vostra. Chiudo. Ciao Luca, buon proseguimento. E ciao anche a Graziano, mi raccomando, fai da bravo, Le supposte pigliate grosse non fine, che ci fanno bene. Ah, Giomari, avanti, stai dicendo qualcosa? Giomari. Dimmi. Stai dicendo qualcosa, che cazzo non ti ha cazzeggato? Non ho capito lui, scusa, Ho detto, stavi dicendo qualcosa, perché Graziano ti ha schiacciato. Ah, vero, è forte, perché prende le supposte lui. E lo rinforza, lo capite, per quello. Vabbè, comunque, stavi dicendo qualcosa? O stavi chiudendo, No, stavo chiudendo, ho detto lui, che c'ho fame e mi ando a mangiare, che meglio, vai. A domani, vai, se coincide lui. Riprendi tu, saluto neanche a Vittorio, se c'è l'ascolto. Ciao. Ciao, Giovanni, dai. Buona cena, allora. E buonanotte, saluta la tua moglie. E ci sentiamo. Anche io adesso vado a scaldare, accendere il fornetto, dai, che mi scaldo la roba là, anche io ho fame. Ciao Giomari, a domani se... Sei coinciso. Vabbè Luca, io chiudo, va. Ciao Vittorio, se ci sei, a domani. Luca. Grazie, stavo mandando un messaggio, dimmi. Chiudo là, che sono già rotto meno quarto, me ne va pure l'insulina. A domani ce la sentiamo, se coincide. Ciao Vittorio, se sei in ascolto. Ciao. Ciao, grazie. A domani, ciao.